No scherzà col foc. No scherzà col foc, ninine. Che col cise, al pos buentà. Lasse cal sclopeti. Tu as bentim di saborà. Stamo attente de sbrovade, che il sglonfun al duro un pies. Prin che il sclopi al titumie, la visia in tan madres. Pensa ben che il foc al bruse, e che un stic al pol fa mal. Lasse cal sbusini, e che il stial di il ciavedal. Une rose sbutulade, tu, ninine, hanno tu queis. Se tu resti sbiel scotade, tu sei rose senza fueis. Une volte disfueade, no ti giove pizvai. Ciol, ninine, i fiars d'aguglie, manda il fuca benedì. Dome il florins floridure, al nul bon e al dals profum. Rosis flapis, sgardufadis, non ulvelis plui nisum. Non scherza col fumine, che col si dice a col sventà. Lasse che scopeti, tu aspetti di sabora. Stavo dette da non ulvelis, non ulvelis, non.